Benvenuti ad una nuova puntata di Dilettanti allo sbaraglio, Absolute Beginners. Benvenuto Sasà. Ciao Babe, benvenuto a tutti quanti. Absolute Beginners si occupa ormai da qualche settimana di band misconosciute, più o meno. Diciamo che siamo sempre stati nel sottofondo, soprattutto americano, siamo finiti addirittura in Finlandia. Stranamente non siamo mai andati in Inghilterra, che di band sotterranee ne ha sempre avute tante. Beh, di musica nello scorso secolo e anche in questo la Terra d'Albione ne ha prodotta veramente tanta. E oggi parliamo di Durutti Column. Durutti Column è una band di Manchester uscita nel 1979, quindi in pieno boom della musica di Manchester. Ricordiamo due nomi su tutti, un po' meno misconosciuti dei Durutti Column, erano sicuramente i Joy Division e i Fall. I Joy Division uscivano su Factory Records, che ebbe il coraggio, la fantasia di produrre questi Durutti Column. Dico Durutti apposta perché il nome in inglese è scritto Durutti ed è sbagliato, perché il nome si rifà alla colonna Durutti, che era una colonna di militanti anarchici durante la guerra spagnola, ma tant'è, ne parleremo dopo. Thank you. Beh, siete sempre su Absolute Beginners, stiamo parlando dei Durutti Column e parlavamo del nome. Il nome non è un'idea del chitarrista Vinnie Reilly, originario di Manchester, come Tony Wilson. Tony Wilson era abbastanza famoso perché era tra i cofondatori della Factory Records, l'etichetta di Joy Division, e anche socio dell'Hacienda, che poi sarebbe diventata molto famosa nella Madchester di 88-89, dei rave party, eccetera, dell'acid house. Ma in questo fine degli anni 70 Tony Wilson era appassionato di un fumetto che si chiamava appunto Il ritorno della colonna Durruti. Ma non si scriveva Durutti Column, vabbè, comunque la misinterpretazione delle lingue latine non è una novità. No, ma infatti la storpiatura del nome mi fa pensare a quanto in realtà aver chiamato il gruppo in questa maniera sia dovuto a chissà quale principio o semplicemente un'intuizione, essere affascinati da questo fumetto o da un personaggio come nel caso di Buenaventura Durruti, non Durutti. E comunque quando stavi dicendo della Factory o di questa... particolare di questo particolare nome, beh, potremmo parlare per un'ora e della Factory, dell'Hacienda e di questo gruppo anarchico spagnolo che combatteva Franco. In realtà stiamo parlando di un gruppo post-punk di Durutti Column, e già da questi primi due pezzi dell'album, che appunto si chiama come il fumetto, The Return of the Durutti Column, abbiamo capito un pochino l'antifona, ovvero drum machine sulla quale viene srotolato questo chitarrismo di Vinnie Reilly, un chitarrista dalla tecnica classica, che spesso ci teneva a sottolineare che lui non era un chitarrista punk, beh, lo abbiamo già sentito, e questi climi influenzati dall'eco della chitarra infinito, atmosfere sognanti, e l'album sarà tutto così. Thank you. Certo che dare un nome militaresco a una band del genere, insomma, ci voleva un bello spirito situazionista, che poi band alla fine era il solo Vinnie Reilly. Esatto, era lui non one man band, ma poco ci manca, forse sì. E parlando un pochino dell'epoca, inizio anni 80, Manchester, la Factory stava iniziando a pubblicare i propri artisti, tra i più famosi sicuramente Joy Division e i New Order. E la musica di questo gruppo invece, Durutti Column, è palesemente diversa da questa musica. Inoltre stavo pensando prima a come finora abbiamo parlato di gruppi che hanno operato in un lasso temporale piuttosto limitato, mentre i Durutti Column continueranno anche dopo il fallimento della Factory a produrre e tuttora hanno in discografia una cosa come una ventina di album. Un gruppo di culto. Un gruppo di culto, tra l'altro, senza mai cambiare approccio alla musica, cioè quello che stiamo sentendo adesso è bene o male quello che poi Vinnie Reilly suonerà nelle seguenti decade. Chitarra e Ecoplex, che era un multi-effetto degli anni 50, fatto con un nastro da cassette. Sì, probabilmente non la più sofisticata tecnologia musicale, ma l'effetto è probabilmente quello che Vinnie Reilly desiderava. Beh, a modo suo era sperimentale e infatti quelli della Factory lo mandarono in studio con Martin Annett, il famoso produttore di Joy Division, per vedere cosa ne uscisse, perché non era un musicista, come dire, rodato. Non solo, ma lui stesso, Vinnie Reilly, lavorava in una stazione di benzina e suonava la chitarra in casa in una maniera abbastanza per tirare, diciamo, a divertirsi, era quello che lui puntava, tant'è che quando il produttore lo portava negli studi per registrare, lui quasi si chiedeva, ma insomma, cosa stiamo facendo? E lui non ci credeva che sarebbe venuto fuori un album. Thank you. Sembra quasi che Vinnie Reilly accarezzi le corde della chitarra come fossero fatte di ragnatele, che era delicato. E fa ancora più strano, pensando al nome del gruppo, questo tipo di musica, che in realtà poi esprimeva bene la personalità di Vinnie Reilly, un ragazzo che si era appunto ritratto in parte dal mondo e, da quel che sappiamo, penso soffrisse, abbia sofferto anche di anoressia nervosa. E la sua musica è minimale, ma uno potrebbe anche dirla anoressica. Sì, lascia l'impressione di una persona che si chiude un pochino nel suo mondo e fa pensare un film che è uscito anni fa, si chiama 24 Hours Party People, che parla della scena dell'azienda, della factory, in una scena che non si rifà ad un avvenimento realmente accaduto, però in una scena il chitarrista dei Drutti Column si ritrova a suonare da solo dentro l'azienda, davanti a nessun pubblico. Questo forse è anche un po' a dipingere questa personalità. Anche perché l'azienda del 1987-88 non era certo un posto rinomato per il minimalismo, ma per andarsi a Sì, spaccare. non per musica da camera. Grazie. Certo, l'influenza di Tony Wilson della Factory è stata importante sui Duty Column, a partire dal nome e anche dai titoli degli album. Il secondo album si sarebbe chiamato LC, da Lotta Continua, cioè il gruppo di estrema sinistra extraparlamentare italiano. Era la temperie degli anni, evidentemente aveva ragione Johnny Rotten quando diceva: in Germania hanno avuto la Rote Armee Fraktion, cioè le Brigate Rosse, e in Inghilterra abbiamo avuto il punk. Però qualcosa arrivava. Gang of Four, Leeds, appunto, i Druti Column, gli scritti politici, che si facevano gli scritti politici di Gramsci, storpiando nella loro volontà il Un'altra nome. storpiatura. Sì, beh, sicuramente il lavoro di Martin Annett all'interno dell'intera scena post-punk di Manchester inglese è stato fenomenale, ma soprattutto in questo album credo che la sua mano abbia sia stata la persona che ha fatto in modo che questa musica uscisse su disco, perché probabilmente se avessimo aspettato Vinnie Riley, beh, non avremmo mai avuto questa musica. Siete sempre su Absolute Beginners, questi sono i Durutti Column, forte reminiscenza di minimalismo americano, e a dirla tutta a me è venuto in mente Moondog, che del minimalismo americano è stato un po' il papà, colui il quale ha dato il là a tutto il movimento senza forse neanche saperlo, già dagli anni 50. Non so quanti di voi conosciate Moondog, ma era un misto di musica di nativi americani e organo che aveva imparato a suonare da bambino, e questo minimalismo si ripercuote anche nel disco dei Durutti Column. Me lo immagino Vinnie Reilly in studio con Martin Annett che è completamente perso per sistemare gli innumerevoli effetti, e Vinnie Reilly perso appunto a sua volta, si è dovuto nello studio a fare i suoi arpeggi di chitarra. Sì, tu Babbe hai parlato di gruppi che, o artisti che probabilmente hanno influenzato i Durutti Column, invece io ascoltandoli ho sentito queste sonorità in gruppi che sono venuti dopo, ad esempio i Red Hot Chili Peppers e Frusciante hanno spesso citato questo chitarrista Vinnie Reilly come forma di ispirazione. Alcuni brani, alcuni frasecci che abbiamo ascoltato a me ricordano un po' della musica dei Red Hot Chili Peppers. che dire, se non ci fosse stato Martin Hunt veramente, anche perché mi sa che i pattern ritmici, le linee di basso, con l'elettronica dell'epoca, siamo nel 79, è giusto uno come Martin Hunt che aveva tutti i contatti con la MS, per esempio, la Dunlop, che facevano strumentazione elettronica per studi audio, appunto, poteva gestire e creare queste sonorità. Direi uno strano connubio tra due persone, come dire, un po' involute su se stesse, autoreferenziali, che però in qualche modo, magicamente, hanno prodotto questo disco. Sì, e altri poi verranno in avanti da parte di Vinnie Riley, forse con altre formazioni, forse con altri produttori, alcuni con la Factory, alcuni non con la Factory, e tuttora, chissà, magari leggeremo sui nostri siti internet di un nuovo album, Drutti Column, presto. È ancora in giro. Per il momento vi salutiamo, grazie per l'ascolto e a risentirci sempre su Absolute Beginners. Buonanotte, buona serata, buon mattino, dipende come ci ascoltate. A tutti. Ciao, buon tutto a tutti, ciao, vabbè.